Allora, Pasqua mi ammazza perché mi aveva chiesto di non farlo adesso, ma rompiamo la scaletta solo un secondo. Alessia. Allora, Ale, approfitto del fatto che sei connessa. Sì, sono io. Sono Giuseppe della Stella Rossa. Mi parli ancora? Sì, ti parlo ancora. Malvolentieri. Sto mandando Stefano, dai. Una delle cose che volevamo discutere oggi, che in realtà è una proposta, è proprio su questo tema qua che avete già affrontato, che riguarda la femminile quanto la maschile, allo stesso modo, perché noi abbiamo uno staff tecnico che torna in questo momento ad essere composto solo da giocatori, senza figure esterne, sia per la maschile che per la femminile, e quindi per noi diventa sempre più rilevante andare ad approfondire, magari approfittando dell'esperienza di chi l'ha fatto prima di noi, come fare questo lavoro bene. Quindi la proposta, che in realtà, mortacci vostri, è una proposta che avevamo fatto già all'ultima riunione del rugby popolare, è di fare esattamente 4 concentramenti all'anno, quindi uno ogni 3 mesi, delle sole persone coinvolte nello staff tecnico delle nostre squadre, con l'obiettivo di fare degli approfondimenti specifici, che possono essere una volta sulla maschile, una volta sulla femminile, una volta sul mini rugby, oppure possono essere una volta sulla mischia, una volta, cioè non so come dire, per tematiche approfondite. Perché noi abbiamo bisogno di, come abbiamo discusso, costruire uno staff della femminile composto da giocatrici della femminile, che hanno iniziato quest'anno e quindi quest'anno era anche importante che giocassero, però a Tender diventano una realtà autogestita come siamo noi, e per la maschile perché abbiamo un sacco di gente e uno staff tecnico composto da giocatori. Quindi a settembre noi sicuramente ci iscriviamo alla Federazione Italiana Rugby, a ben 15 anni dalla nascita del progetto, per iscrivere le ragazze in ogni caso, indipendentemente da quello che faremo, in modo tale che possano partecipare a tutte le cose. Però cioè, cerchiamo di rendere questa roba fattiva e programmiamo sti 4 appuntamenti, perché noi abbiamo bisogno e penso tante altre realtà. Bella. Ok, c'era un altro intervento da parte di un compagno, poi magari chiudiamo e cerchiamo di andare avanti con degli spunti che abbiamo fatto e cerchiamo di sviscerarli dopo, perché comunque volevamo finire il giro delle squadre e anche sentire il compagno in valle, cioè nel senso c'è un collegamento, facciamo parlare Thor, cerchiamo di rispettare la scaletta, grazie. No, vai. Sì, cioè. Ma è già in collegamento il compagno. Ah, ok. E invece invertire un attimo e aprire la discussione adesso, visto che è già partito il collegamento, fai finire Alessio, rimane in collegamento. Ci sono altre domande? Vabbè, io proporrei questo comunque, ragazzi, il tema è stato già affrontato e già introdotto, sarebbe poco lineare non affrontarlo adesso. Io direi di fare così, ci scusiamo un attimo con il compagno, lo chiamiamo dopo, scusandoci, gli offriamo una birra un giorno. Quello che ha proposto Mico, volevo capire se le altre realtà hanno un'idea al riguardo, cioè il fatto di avere perché un po' tutti diciamo avevamo questa necessità dell'autoformazione, un po' tutte le squadre hanno espresso questo bisogno. Voi avete questa è un'idea che abbiamo proposto noi, ci sono alternative oppure cosa ne pensate riguardo un'iniziativa del genere? Non so se qualcuno, dopo che Pasqua si polemizza. Dai, devi venire qua. Sì, vieni qua. Non posso venire io, sarei venuto io ma non posso. Anche gli altri, ragazzi, una Dora, c'è Marco che finge di essere qui per caso. No, se vuole rimanere, altrimenti se no vuole... Non vuole... Ah, scusami Alessia, se tu vuoi rimanere noi facciamo un attimo una discussione qua vi sto ascoltando e magari poi mi muto anche io perché no. Vuoi rimanere collegata? No, posso rimanere anche collegata. Perfetto. Rispetto a questo volevo solo dire una piccola cosa sulla parte della formazione e innanzitutto dire a Mico che è vero, l'avevamo detto e io continuo ad essere convinta del fatto che dobbiamo fissargli questi incontri di autoformazione interna e di confronto. E rispetto alla, diciamo, all'osservazione specifica che facevate sugli allenamenti, le necessità delle ragazze sono completamente diverse da quelle che hanno i ragazzi, quindi prima possibile sarebbe opportuno, se l'ambizione delle ragazze è quella di fare un campionato a 15 o a 7, trovare la modalità di farle allenare autonomamente o comunque separatamente. Giocare insieme ai ragazzi non è assolutamente la stessa cosa, e per quanto lo si possa fare in una squadra di compagni cui le dinamiche che si portano in campo siano di assoluto rispetto, di assoluta condivisione, comunque non è la stessa esperienza. Quindi affinché le ragazze possano prima possibile viversela positivamente e che l'esperienza che prendono in campo sia effettivamente costruttiva e significativa per loro, dovete cercare prima possibile di separare gli allenamenti. Poi giocare insieme a fare un campionato WISP parallelamente è sicuramente un'esperienza divertente, simpatica, ma se l'ambizione è quella di giocare a 15, prima possibile è indispensabile questa separazione. Ci sono proprio dalle caratteristiche fisiche mi fanno allenamento congiunto, anche se poi uno dice le ragazze non si placcano, si portano sulla terra, ma non è proprio un'altra cosa. Cioè questo, anche questo limitare una serie di azioni in campo non fa sperimentare la cosa vera poi di uno scontro uno a uno tra ragazze, no? E quindi prima possibile, appunto, l'ho detto 7 volte, questo intervento è necessario alla divisione e trovare la modalità di farle allenare separatamente. Ecco, volevo dire solo questo, poi mi taccio, mi metto muto, continuerò ad ascoltarvi, però mi muto. Grazie. Allora, beh, già che stiamo parlando di formazione, diciamo questo intervento in canna sulla questione formativa, sì, perché si parla di formazione interna al rugby popolare da 2-3-7 a Roma fa, cioè è qualcosa che ormai stiamo rimuginando da un po', e ci sono vari livelli di cui parlo di queste cose. Intanto quello personale, perché quando già a Roma dicemmo facciamo formazione sugli allenatori eccetera eccetera, già ho cominciato a mettermi in quel tipo di ottica, di informarmi, di capire quali sono gli argomenti, quali sono le priorità da portare come allenatore, come, ma anche come formatore, cioè tutto quello che deve convogliarsi nel discorso di allenare una squadra di rugby popolare che contiene militanti, che contiene neofiti, contiene gli amici, contiene gli old, in maniera così trasversale. E in questo ultimo anno ho provato a allenare i cinghiali a Bologna saltuariamente, insieme a Freccia, insieme a Ruggio, insomma in questo modo caotico che abbiamo, che contraddistingue un po' le nostre società. C'è anche la Stella Rossa che un anno fa diceva vogliamo mettere su a squadre mini rugby, fine stagione adesso squadre femminile, quindi gli obiettivi ben chiari, la direzione delle cose sempre è imprevedibile. C'è una parola che è stocastico, non è una parolaccia, è stocastico. In sostanza, quindi niente, un po' io personalmente mi sto informando, mi interessa la cosa, mi ingrifo parecchio. E da portare avanti come rugby popolare, sì, piazziamo 4 date, ci si trova i vari referenti, esperti del mini rugby, della femminile, del maschile, eccetera eccetera, insomma persone interessanti, e si chiacchiera e si vede, magari si fa una parte iniziale su quali sono le unità da trattare, come le svolgiamo, facciamo lavoro in campo, 4 incontri, è una bella cosa. E un altro piano su cui volevo portare questa cosa è quello del campionato WISP Rugby, dove ho la mia voce in capitolo, quindi quello che si può, quei cambiamenti che a me interessa portare nel rugby, tanto in quello popolare, posso portarli anche in quel discorso lì. C'è un discorso sulla formazione degli arbitri nel campionato della WISP, e quindi è attivo anche quell'ambito lì, diciamo. A me piacerebbe che ci fosse che c'è bisogno di arbitri buoni così tanto quanto c'è bisogno di allenatori buoni, e sono figure secondo me che possono anche, cioè essere le stesse, visto che ci sono delle squadre nel campionato WISP che sono quelle che fanno parte del rugby popolare. E quindi la suggestione è un po' questa. Io come interesse questo della formazione, vuoi per il lavoro anche che faccio, e questo interesse della formazione mi piacerebbe riuscire a farlo rimbalzare in entrambi questi ambiti. E ovviamente il percorso del rugby popolare è quello che andrà secondo quelle 4 giornate di formazione, e però ecco, io personalmente come logica vorrei vedere tra virgolette una nuova mentalità, un gruppo trainante del rugby, non necessariamente il rugby italiano di tutto, ma del rugby che frequentiamo noi, del nostro mondo di giocatori, di tifosi, amici e così, cioè qualcuno nel nostro mondo che riesca a dare una linea e che riesca a portare avanti tutti questi progetti, vuoi mini rugby, vuoi quelli del carcere, vuoi quelli della femminile, ma anche quelli proprio del core, proprio delle squadre a 15 che giocano il campionato. E per questo diciamo è un po' il panorama che vedo io. Se poi bisogna entrare nei contenuti, chiaro, bisogna prepararsi, non è un discorso che posso buttare giù così a braccio, però è una roba che, cioè ecco, volevo rinforzare la questione di magari uscire già stavolta con 4 date, 4 posti diversi e eventualmente capire anche chi ci può venire, per poi portarlo in qualcosa di concreto nell'allenamento stesso delle squadre. E io mi incaricherò poi di portarlo di fare da tramite, da cinghia di trasmissione per arrivare nei cinghiali, visto che abbiamo la riunione giovedì 20, e costruiamo ecco questa formazione di allenatori per il rugby popolare. Io ci sto un botto, mi piace, posso parlare per me così. Ok, scusate, salutiamo Alessia che magari la riattacchiamo, e se no sta tipo al telefono da mezz'ora perché l'intervento suo è finito. Ciao Alessia, grazie della disponibilità. Ciao a voi, a tutti, ciao. Un abbraccio grande. Oh, Stella Rossa, non mollate, le altre compagne le conosco già, quindi un abbraccio a tutte. Mi raccomando, non vi fate mettere in testa dal presidente e da amico là, che se no salgo io veramente la prossima volta. Un abbraccio. Ciao. Allora, prendo la parola io un attimo e magari faccio anche un intervento che apre poi alla valle se poi, e chiude questo tema un po' di formazione / rugby popolare. Molto. Ah, allora, forse meglio prima te. Okay. Vieni qua dietro. Ciao. Allora, il tema del... Vai, guarda. Grazie. Il tema degli allenatori, delle allenatrici è un tema caldissimo all'interno della Dinamo, perché ne abbiamo cambiati 10.000, poi arrivano, spariscono, non so, sembra che ci sia qualche magia per cui cioè ogni volta arriva una nuova persona, magari stai nella squadra, fra di noi ci diciamo dai non spaventiamolo, dai che questo ce lo teniamo stretto, questa volta va bene. Non si sa perché, per come, si vede siamo spaventosi e spaventose, gli allenatori spariscono. Adesso mannaggia a me, mi sto trovando io a allenare la Dinamo spesso, e che quindi c'è proprio una vergogna veramente. Ah, non è più Peppe Spartak l'allenatore, quindi? No, lui si è... Ah, okay. Si è esonerato poi... Da allenatore e da uomo. No, salutiamo Peppe che secondo me ci sta ascoltando, mo mi insulterà per telefono. No, e secondo me questo tema che viene sollevato appunto dell'autoformazione è super importante e super interessante, anche perché all'interno della nostra rete esistono realtà di sicuro con esperienze totalmente diverse, e come dicevano prima i compagni degli Orez, avere comunque un allenatore interno rispetto a confrontarsi con persone esterne è tutta un'altra cosa. e a noi è capitato di avere allenatori che partecipavano attivamente al progetto e allenatori che venivano solo ad allenare, bellissimo, però che magari, cioè, delle spinte della realtà complessiva della squadra erano abbastanza ignoranti e questa cosa non ci piace, ecco. E sì, secondo me è una proposta interessante, di sicuro ne parleremo all'interno della Dinamo, è da capire come, cioè come realizzare questa cosa a livello proprio tecnico, cioè di sicuro qualcuno si dovrà collare queste preparazioni. Capire come farlo, magari non in una modalità propriamente didattica, nel senso che c'è una squadra che spiega alle altre, ma riuscire a farlo in una maniera collettiva sarebbe interessante, e capire dove, comunque la geografia è un problema, cioè spostarsi non è così scontato, e quindi capire, cioè se utilizzare, cioè perché comunque c'è la necessità di andare in campo, però magari c'è una parte più tecnica a tavolino che può essere seguita anche a distanza, quindi dare questa possibilità secondo me sarebbe importante. Detto ciò, come Dinamo accogliamo la proposta, ne parleremo in squadra e capiremo se e come accollarci questa cosa e chi potrà partecipare. Grazie. Ok. No, cioè io volevo porre una domanda a cui non rispondere adesso, ma fare in modo che le varie squadre poi ci riflettano anche noi, cioè è la questione del come creare degli allenatori, cioè delle allenatrici o comunque delle figure di riferimento dal punto di vista dello staff tecnico all'interno di situazioni di rugby femminile, dato che spesso e volentieri comunque le persone che giocano nel rugby femminile, almeno per quella che è la mia esperienza, magari hanno cominciato sempre da poco e manca un po' la questione più dell'esperienza, cioè con tutta la buona volontà una persona che ha appena cominciato a giocare a rugby non potrà prendersi carico dell'allenamento di una squadra da subito, quindi capire anche in che modo fare sul lungo periodo in modo che ci siano delle allenatrici e non sempre degli allenatori per le femminili. Ma siccome devo comunque arrivare al tempo del Flixbus, riparlo di nuovo. Allora, per quanto riguarda intanto, aggiungo una cosa rispetto a quello che ha detto prima Alessia, e approfitto che ha attaccato perché lei ad esempio è contraria. Io ad esempio, per quanto riguarda la Coppa Italia femminile proposta dalla FIR, io adesso non so quale sia la strutturazione qua, chiaramente quello che penalizza molto le ragazze, al di là di una formula che è diversa da quella che poi ti ritrovi sul campo, perché giochi una cosa che non è 7, non è 15, però magari è utile come base per sperimentarsi, quindi chiaramente se le ragazze nel corso della stagione vorranno iniziare, oltre ad allenarsi come gruppo autonomo femminile, anche a sperimentarsi sul campo e magari non ci sarà la voglia o comunque l'opportunità di sperimentarsi a 15 con il tutoraggio di un'altra società, la Coppa Italia può essere una cosa che tanto puoi partecipare una domenica, per un mese non la fai, nessuno ti dice niente, però magari chiaramente lo sport, per quella che è la nostra, il nostro approccio, vive anche dei momenti di confronto, è un momento importante non limitarsi solo alla parte dell'allenamento, quindi valutare questo. Per quanto riguarda la proposta sulla formazione, io personalmente, a parte io non alleno perché ho riconosciuto da subito questo mio limite, insomma, anche perché avevo poco da insegnare agli altri, insomma, quindi non riuscirei adesso a immaginare 4 date o 4 appuntamenti. Può essere sicuramente un'idea su cui ragionare, e come diceva Leo, non buttarla lì in modo generico, ma prenderci l'impegno magari di approcciare alla nuova stagione già con questo come obiettivo. E chiaramente però la calendarizzazione di appuntamenti di questo tipo varia anche a seconda dell'obiettivo che ti poni, perché è ovvio che se il mio obiettivo di formazione è quello di aprirmi al mini rugby è un conto, se il mio obiettivo di formazione è quello di avere allenatori che si rivolgono a dei gruppi seniores è un altro conto, se il mio obiettivo è un approfondimento specifico su un aspetto del gioco è ancora un altro conto. Quindi magari intanto mettiamo insieme quelle che sono i nostri desideri, le nostre esperienze, le nostre esigenze, e quindi magari è anche più facile immaginare che tipo di appuntamenti mettere in piedi. Quello che magari io posso provare a riportare nel gruppo Reds è quello della condivisione dei momenti di autoformazione. Come diceva Alessia, come siamo detti altre volte, noi facciamo dei momenti di autoformazione interni per i tecnici che affiancano i corsi di formazione federali. Potrebbe essere un'idea che se ci sono momenti simili in altre società, diciamo che una delle cose che ci ha regalato il magico mondo della pandemia, il magico mondo di Zoom, di tutte le piattaforme, potrebbe essere un'ipotesi da condividere, quella che i momenti di autoformazione interne siano anche dei momenti condivisi con le altre società, e quindi ci sia un appuntamento online in cui da Torino a Catania o a dove ci troviamo ci colleghiamo e vediamo l'autoformazione degli All Reds piuttosto che quella dei Briganti, piuttosto che quella della Dinamo o dei Cinghiali. Quindi questo potrebbe essere intanto un primo passo molto facile da mettere in piedi, e poi ragionare su questi appuntamenti da vivere in presenza, che ad esempio, come diceva prima Amico, possono essere a quel punto dei momenti in cui dividi anche in approfondimenti pratici, quindi fai una parte teorica e magari una seconda parte sul campo, così come avviene nei corsi veri e propri. Quindi questa è un po' l'altra cosa che volevo aggiungere. Per quanto riguarda la suggestione e l'obiettivo fortissimo con cui ci hai lasciato tu nell'intervento precedente, noi su questo, su una parte di questo aspetto siamo un po' indietro come ragionamento, o sinceramente ce ne siamo sperimentati poco su quali possano essere le vie di una proposta sportiva soddisfacente e mista. E diciamo che fino ad oggi siamo approcciati al rugby come dare la possibilità a tutte e tutti quelli che si approcciavano di esprimere al massimo quelle che sono le proprie possibilità sportive, agonistiche, di soddisfazione all'interno del gioco, all'interno di un gioco che già conoscevamo, che è quello del rugby che attualmente pratichiamo. Quindi per questo, anche forse per pigrizia mentale, noi non ci siamo mai sperimentati su un'idea di gioco misto, tra virgolette, però anche questi momenti di confronto sono utili anche per questo, perché poi ognuno porta sul piatto quella che è la propria esperienza, il proprio bagaglio, e magari lascia delle suggestioni in giro.